Capitolo 14. Il rettore. Il giorno successivo fu una giornata bella come la vigilia. Subito dopo la colazione, la signorina Matilde, dopo aver galoppato a furia di strafalcioni attraverso diverse lezioni senza profitto e massacrato il pianoforte per un'ora, di pessimo umore verso quello come verso di me, perché la mamma non voleva darle vacanza, si era recata nei suoi ritrovi favoriti, i cortili, le stalle, i canili. La signorina Rosalia era uscita per una passeggiata con un nuovo romanzo alla moda per compagno, lasciandomi nella sala studio a lavorar sodo a un acquerello che le avevo promesso di eseguire per lei e che l'aveva insistito io finissi quel giorno. Ai miei piedi era accucciato un piccolo brutto terrier. Era proprietà della signorina Matilde, ma ella odiava la bestiola e voleva venderla, dicendo che era completamente guastata. Era in verità un ottimo cane della sua razza. Ma la signorina dichiarava che non era buono a nulla e non aveva neppure il discernimento di riconoscere la sua padrona. L'aveva acquistato da piccolissimo, esigendo sulle prime che nessun altro lo toccasse, ma si stancò presto del suo fastidioso cucciolo e mi aveva concesso di buona grazia che me ne prendessi cura io. E siccome avevo allevato il cagnolino dall'infanzia all'adolescenza, naturalmente mi si era affezionato e questa era una ricompensa che avrei molto apprezzato. E considerato in grado di ripagarmi a usura tutti i fastidi che mi ero presa per esso, se la gratitudine del povero Snap non l'avesse esposto a molte parole dure, a molti calci e pizzicotti crudeli della sua padrona, e se ora non fosse stato in pericolo di essere liquidato o venduto a qualche padrone spietato. Ma che farci? Io non potevo farmi odiare con un cattivo trattamento, e lei non riusciva a farsi amare con la bontà. Comunque, mentre me ne stavo seduta, maneggiando rapida il pennello, giunse nella stanza la signora Murray, come un vascello a vele spiegate. «Signorina Gray!» cominciò. «Mio Dio! Come può star lì a disegnare in una giornata come questa?» Ella credeva che stessi a lavorare per mio gusto. «Mi meraviglio che non abbia messo il cappello e non sia uscita con le signorine!» «Credo, signora, che la signorina Rosalia stia leggendo e la signorina Matilde si stia divertendo con i suoi cani.» Se lei cercasse di distrarre un po' più la signorina Matilde, credo che non si sentirebbe trascinata a cercare di spassarsi tanto coi cani, i cavalli e gli stallieri. E se fosse un po' più allegra e socievole con la signorina Rosalia, ella non andrebbe tanto spesso a gironzolare per i campi con un libro in mano. Comunque, non voglio rimproverarla, aggiunse, notando forse che per l'emozione le guance mi ardevano e la mano mi tremava. Su, per carità, cerchi di non essere così suscettibile. Non ho altro da dirle su ciò. E mi dica se sa dove è andata Rosalia e perché le piace tanto star da sola. Ma dice che le piace stare da sola quando ha un libro nuovo da leggere. Ma perché non può leggerlo nel parco o in giardino? Perché deve andare per campi e sentieri? E come va che il signor Hatfield la incontra tanto spesso? Ella ha detto la settimana scorsa che egli ha camminato a suo fianco a cavallo lungo tutto Moss Lane. E ora era di sicuro lui quello che ho visto dalla finestra della toeletta, che camminava lesto fuori dai cancelli del parco e si dirigeva verso i campi dove lei va così di sovente. Vorrei che andasse a vedere se la signorina è là e che le rammenti con tatto che non è bene per una damigella del suo rango e delle sue speranze andare qua e là in giro da sola in quel modo, esposta all'attenzione di chiunque osi rivolgerle la parola, come una povera ragazza trascurata che non abbia un parco dove passeggiare, nei familiari che si prendano cura di lei. E le dica che suo padre sarebbe terribilmente adirato se sapesse che tratta il signor Hatfield in quel modo familiare che temo. E oh, se lei, se una governante avesse soltanto la metà delle apprensioni di una madre, metà della preoccupazione di una madre, mi sarei risparmiata questa seccatura. E lei avrebbe immediatamente visto la necessità di sorvegliarle e di farle buona compagnia. Bene, vada, vada, non c'è tempo da perdere, gridò, vedendo che avevo messo da parte gli attrezzi da disegno e stavo aspettando sulla soglia la conclusione del suo discorso. Secondo le sue previsioni, trovai la signorina Murray proprio nel suo campo preferito, fuori del parco, e sfortunatamente non da sola. Infatti, l'alta e dignitosa figura del signor Hatfield le camminava lentamente al fianco. Mi trovavo in un bel pasticcio. Avevo il dovere di interrompere il tête-à-tête, ma come fare? Il signor Hatfield non poteva essere messo in fuga da una persona insignificante come me e andare a mettermi dall'altro lato della signorina Murray e imporre la mia importuna presenza senza aver l'aria di tener conto del suo compagno era una scorrettezza di cui non mi sarei resa colpevole. E neppure avevo il coraggio di gridarle forte dal margine del campo che era desiderata altrove. Così presi il partito intermedio di camminare in loro direzione a passo lento ma fermo, decisa, se la mia apparizione non fosse bastata, ad allontanare il bello, a passare accanto alla signorina Murray e dirle che la mamma la desiderava. Era veramente affascinante mentre camminava, soffermandosi sotto gli ipocastani in germoglio che stendevano le loro lunghe braccia sopra la palizzata del parco, con il suo libro chiuso in una mano e nell'altra un grazioso ramo di mirto con cui si trastullava. I riccioli lucenti le sfuggivano a profusione dal cappellino, dolcemente agitati dalla brezza. E le sue belle guance erano accese di vanità soddisfatta e i suoi sorridenti occhi azzurri ora guardavano accortamente il suo ammiratore. Ora fissavano il suo ramo di mirto. Snap la raggiunse però prima di me e la interruppe di una risposta per metà insolente e per metà scherzosa, afferrandola per il vestito e trascinandola a viva forza, finché il signor Hatfield col bastone non somministrò un colpo sonoro sulla testa della bestiola che corse di nuovo verso di me, guaendo così forte che divertì molto il nobile reverendo. Ma vedendomi così vicina, egli pensò probabilmente che era meglio per lui andarsene, e mentre mi chinavo per accarezzare il cane con pietà ostentata, per dimostrargli che disapprovavo la sua severità, sentì che diceva: «Quando la potrò rivedere, signorina Murray?» «In chiesa, naturalmente», rispose lei, «a meno che i suoi affari non la riportino, per combinazione qui, proprio nel momento che ci capito a passeggiare». «Beh, posso sempre combinare di avere degli affari qui, se so di preciso quando e dove la troverò». «Oh, ma non posso informarla quando e dove, perché sono così poco metodica, sa, che non posso mai dire oggi quel che farò domani». «Allora mi dia intanto questo come ricordo», disse egli con ardore scherzoso, stendendo la mano verso il ramo di mirto. «Oh no, proprio non posso darglielo. Oh sì, la prego, sarò il più infelice dei mortali se non me lo darà. Non può essere così crudele da negarmi un favore che le costa così poco e che io apprezzerei tanto», pregò lui con passione, come se fosse questa questione di vita o di morte. Nel frattempo mi ero fermata, a soli pochi metri da loro, aspettando impazientemente che egli se ne andasse. «Ecco allora, lo prenda e vada», disse Rosalia. Egli prese il dono con gioia, mormorò qualcosa che la fece arrossire e scuotere la testa, ma insieme a una risatina che mostrò che lo scontento di lei era tutto affettato. Quindi il signor Hatfield, con un saluto cortese, si ritirò. «Ha mai visto un uomo simile, signorina Gray?» disse volgendosi a me. «Come sono contenta che sia venuta! Credevo di non sbarazzarmi più di lui e avevo tanta paura che il babbo lo vedesse. È rimasto con lei molto tempo? No, non molto, ma è così straordinariamente impertinente e sta sempre a gironzare da queste parti, dando a intendere che i suoi affari e i suoi doveri parrocchiali esigono la sua presenza qui, ma in realtà per farla apposta a me, poveretta, e venire a tormentarmi dovunque mi vede. Bene. Sua madre è dell'opinione che lei non dovrebbe uscire fuori del parco o del giardino senza la compagnia e la sorveglianza di una persona discreta come me per tenere lontani tutti gli importuni. Ha osservato il signor Hatfield che passava di corsa dinanzi ai cancelli del parco e mi ha mandata con l'incarico di cercarla e sorvegliarla e parimenti avvertirla. Oh, mamma, è ben noiosa, come se non potessi sorvegliarmi da me. Mi ha già scocciato sul conto del signor Hatfield e le ho detto che poteva fidarsi di me. Non dimenticherei il mio rango e la mia posizione per il più straordinario uomo del mondo. Vorrei che domani egli si inginocchiasse ai miei piedi e mi implorasse di diventare sua moglie, così che le potessi dimostrare quanto si sbaglia se suppone che possa mai. Oh, come questo mi manda sulle furie! Pensare che io sia tanto pazza da innamorarmi. Commettere una cosa simile è ben sotto la dignità di una donna. Qua, amore, detesto la sola parola, attribuita a una del nostro sesso, la credo un vero insulto. Se dovessi sentire una preferenza, non sarebbe mai per uno come il povero signor Hatfield, che non gode neppure di 700 sterline l'anno. Oh, mi piace parlare con lui perché è intelligente e divertente. Vorrei che Sir Thomas Ashby fosse attraente la metà di lui. E poi devo avere ben qualcuno con cui amoreggiare e nessun altro ha il buon gusto di venire qua. E quando siamo in società, mamma non vuole che amoreggi con nessuno eccetto che con Sir Thomas, quando c'è. E se non c'è, sono legata mani e piedi per paura che qualcuno tiri fuori qualche storia esagerata e le ficchi in testa che sono fidanzata o anche che mi devo fidanzare con qualcun altro. O cosa più probabile, per paura che quella vecchia odiosa madre possa vedere o sentire parlare della mia condotta e concludere che non sono la moglie adatta per il suo prezioso figlio. Come se il detto figlio non fosse il peggior rompicollo del mondo, e come se una qualsiasi donna della più volgare onestà non fosse anche troppo buona per lui. Stanno proprio così le cose, signorina Murray? E sua mamma lo sa e desidera lo stesso che lei lo sposi? Certamente lo sa, conosce sul suo conto anche più di me, credo. Ma lo tiene nascosto perché io non sia scoraggiata. Non sapendo quanto poco me ne importi, perché in realtà questo non ha grande importanza. Egli funzionerà benone quando sarà sposato. Poi ognuno sa che i dissoluti e emendati diventano i mariti migliori. Mi augurerei soltanto che non fosse così brutto. Ecco tutto quello che penso. Ma che vuole? Non c'è scelta nel paese e il babbo non vuole lasciarci andare a Londra. Ma penserei che il signor Hatfield andrebbe molto meglio. Così sarebbe. Se fosse il signore di Ashby Park, non c'è dubbio, ma il fatto è che devo avere Ashby Park, chiunque sia colui col quale lo divida. Ma intanto il signor Hatfield crederà che lei sia innamorata di lui, non considera quale amara delusione avrà quando scoprirà di essersi ingannato? Oh, niente affatto, sarà la giusta punizione per la sua presunzione, per aver osato credere che potevo amarlo. Non godrò mai tanto come nel sollevargli il velo dagli occhi. Prima sarà e meglio sarà, allora. No, le ho detto che mi piace divertirmi con lui. E poi non è proprio convinto che io l'ami. Sono stata in guardia. Non immagina con che abilità l'ho trattato. Ha la presunzione di credere che possa indurmi ad amarlo, per cui lo punirò come merita. Bene, stia attenta a non dare troppe ragioni a tale presunzione. Ecco tutto, risposi. Ma tutti i miei consigli furono vani. Non ebbero altro risultato che di renderla un poco più sollecita a celarmi i suoi desideri e i suoi pensieri. Non mi parlò più del rettore. Ma capivo che la sua mente, se non il suo cuore, era fissa su lui e che cercava di procurarsi un altro incontro. Benché per compiacere il desiderio della madre fossi ora eletta compagna delle sue passeggiate, ancora persisteva a girare per campi e sentieri che si trovavano più vicini alla strada. E anche se mi parlava o leggeva il libro che portava in mano, ogni tanto si guardava intorno o fissava la strada per vedere se arrivava qualcuno. E se un cavaliere si avvicinava al trotto, capivo dalle critiche impertinenti su quel poveretto a cavallo, chiunque fosse, che essa lo odiava perché non era il signor Hatfield. Certamente, pensavo, non è così indifferente come si crede o come vorrebbe far credere agli altri. E la preoccupazione di sua madre non è completamente infondata, come ella afferma. Passarono 3 giorni ed egli non si vide. Nel pomeriggio del quarto stavamo camminando nel famoso campo a lato della palizzata del parco, ciascuna munita di un libro, perché mi preoccupavo sempre di provvedermi di un'occupazione per i momenti in cui la ragazza non mi ordinava di chiacchierare, quando improvvisamente ella interruppe i miei studi esclamando: Oh, signorina Gray, sia così gentile di andare a vedere Marco Wood e di dare una mezza corona a sua moglie da parte mia. Dovevo portarla o mandarla una settimana fa, ma me ne sono completamente dimenticata. Ecco, mi disse, gettando la borsa e parlando con precipitazione. Non si preoccupi di tirarla fuori ora, ma prenda la borsa e dia loro quello che vuole. Verrei con lei, ma desidero finire questo libro. Le verrò incontro quando l'ho terminato. Vada, presto e... Oh, aspetti. Non sarebbe meglio che gli facesse un po' di lettura? Corra a casa a prendere un buon libro, qualsiasi cosa andrà bene. Eseguì gli ordini, ma sospettando qualcosa a causa delle sue maniere nervose e della sua richiesta precipitosa prima di lasciare il campo, mi voltai indietro ed ecco là il signor Hatfield entrare dal cancello in fondo. Col mandarmi a casa a prendere un libro, voleva evitare che lo incontrassi sulla strada. Ah! Non importa, pensai io, non sarà poi un gran male. Il povero Marco sarà contento della mezza corona e forse anche del buon libro. E se il rettore conquisterà il cuore della signorina Rosalia, questo umilierà un po' il suo orgoglio. E se alla fine si sposeranno, questo la salverà da un destino peggiore. E lei sarà un partito abbastanza buono per lui. E e lui per lei. Marco Wood era l'operaio tisico che ho già menzionato. Ormai se ne stava andando rapidamente. La signorina Murray, con la sua liberalità, ricevette la benedizione di un moribondo. Benché la mezza corona potesse giovare pochissimo a lui, ne era contento per amore della moglie e dei figli che ben presto sarebbero rimasti l'una vedova e gli altri orfani. Rimasi pochi minuti a leggere un po' a consolazione ed edificazione di lui e della sua consorte addolorata e poi li lasciai, ma non avevo percorso 50 metri che incontrai il signor Weston evidentemente in cammino verso la stessa abitazione. Mi salutò con la consueta cordialità, si fermò a chiedere notizie dell'ammalato e della sua famiglia e con schietta familiarità mi prese dalle mani il libro che mi era servito per la lettura, ne sfogliò le pagine, pronunciò pochi ma assennati giudizi e me lo restituì. Poi mi disse qualcosa del povero sofferente che avevo visitato. Mi parlò un poco di Nancy Brown, fece alcune osservazioni sul mio piccolo amico terrier che saltellava ai suoi piedi, poi sul tempo, e se ne andò. Ho omesso di ripetere tutte le sue parole per la ragione che non interesserebbero la lettrice come interessavano me e non perché le abbia dimenticate. Non le ricordo bene perché ci ripensai durante quel giorno e molti altri giorni successivi, non so quante volte, rammentando ogni intonazione della sua voce profonda e chiara, ogni lampo dei suoi vivaci occhi scuri e ogni apparire del suo sorriso amabile, benché troppo passeggero. Una simile confessione parrà assurda, temo, ma che fa? Le lettrici non mi conoscono. Mentre ritornavo felice e godendo internamente di tutto quello che mi circondava, la signorina Murray mi venne incontro frettolosa col suo passo elastico, le guance in fiamme e il sorriso radioso, mostrandosi tutta felice per ragioni sue. Precipitandosi verso di me, mise il suo braccio sotto il mio e senza neppure riprendere fiato cominciò: «Oh, ora, signorina Gray, si consideri altamente onorata, perché sono venuta per raccontarle le novità prima di parlare con chiunque altro». «Bene, di che si tratta?» «Oh, delle novità. In primo luogo deve sapere che appena lei è andata via è arrivato da me il signor Hatfield. Ero in grande angustia per timore che il babbo e la mamma lo vedessero, ma non potevo certo richiamarla indietro e così... Oh, cara, ora non posso dirle velocemente perché, ecco, vedo Matilde nel parco e devo andare ad aprirle il sacco. Ma comunque Hatfield è stato più audace del solito e indescrivibilmente complimentoso e affettuoso come mai. Ha cercato di esserlo almeno, ma non è stato felice in questo perché non è il suo forte. Le dirò tutto un'altra volta». «Ma che cosa ha detto? Questo mi interessa più di tutto». «Glielo dirò un'altra volta. In quel momento ero per combinazione molto di buon umore, ma benché sia stata abbastanza compiacente e graziosa, mi son guardata dal compromettermi in alcun modo. Ma comunque quel vanitoso ha creduto bene di interpretare la mia benevolenza a modo suo. E poi ha approfittato tanto della mia indulgenza che immagini che proprio mi ha fatto una proposta di matrimonio». «E lei?» Io mi sono drizzata con orgoglio e con la più grande freddezza ho espresso il mio stupore a questa dichiarazione e ho detto che speravo non avesse visto nulla nella mia condotta da giustificare le sue aspettative. Avrebbe dovuto vedere come ha cambiato fisionomia. È diventato di un pallore mortale. L'ho rassicurato che lo stimavo, eccetera, eccetera, ma che assolutamente non potevo accettare la sua proposta e se l'avessi accettata il babbo e la mamma non avrebbero mai dato il loro consenso. «Ma se si lo dessero, ha detto, lei rifiuterebbe il suo?» «Oh, certamente, signor Hatfield», ho risposto con un distacco che gli ha stroncato immediatamente tutte le speranze. «Oh, se avesse visto com'era terribilmente mortificato, com'era annientato per la delusione! In realtà avevo quasi pietà di lui!» Tuttavia fece ancora un tentativo disperato, dopo un silenzio abbastanza lungo, durante il quale egli cercò di mantenersi calmo e io di star seria, perché sentivo una grandissima voglia di ridere, cosa che avrebbe rovinato tutto. Ha detto con un sorriso afflitto: «Mi dica francamente, signorina Murray, se avessi la ricchezza di Sir Hugh Meltham e le prospettive del suo primogenito, mi rifiuterebbe? Mi risponda con sincerità sul suo onore». «Certamente», ho detto io, «questo non apporterebbe nessuna differenza». Era una grossa bugia, ma egli mi pareva ancora così fiducioso nelle proprie attrattive che ho deciso di non lasciare del suo castello pietra su pietra. Mi ha guardata apertamente in viso, ma ho saputo così bene non far trasparire i miei sentimenti che si è convinto che non dicevo altro che la verità. Allora tutto è finito, suppongo, ha detto con l'aria di uno che sia sul punto di morire sommerso dalla disperazione. Ma era tanto addolorato quanto deluso. E io, la causa spietata di tutto questo, mi ero mostrata dinanzi al suo dolore così inattaccabile, a tutta l'artiglieria dei suoi sguardi e delle sue parole, così fermamente fredda e altezzosa, che non ha potuto non provare qualche risentimento. E con amarezza particolare ha cominciato. Certamente non mi aspettavo questo da lei, signorina Murray. Potrei dire qualche cosa della sua condotta passata e delle speranze che mi ha fatto sorgere, ma ci passerò sopra. A condizione... Nessuna condizione, signor Hatfield, ho detto io ormai veramente indignata della sua insolenza. Allora mi permetta di chiederle un favore, ha risposto, abbassando immediatamente la voce in un tono più umile. Mi permetta di pregarla di non parlare mai di questo affare con nessuno. Se lei manterrà il silenzio, mi sforzerò di non far apparire nulla di quello che è accaduto fra noi. Nulla intendo fuorché l'inevitabile, perché da parte mia cercherò di tenere per me i miei sentimenti se non potrò annientarli e di perdonare se non potrò dimenticare la causa delle mie sofferenze. Preferisco, signorina Murray, che lei non sappia quanto profondamente mi ha ferito. Meglio che lei non lo sappia. Ma se a questa ferita, mi scusi, che lei già mi ha fatto, lasciamo stare se, innocentemente o no, aggiungerà la pubblicità di questo sfortunato affare e ne parlerà ai 4:20, s'accorgerà che anch'io posso parlare. E anche se lei ha disprezzato il mio amore, non disprezzerà forse la mia... E si è fermato, ma si è morso le labbra esangue con un'aria così terribilmente fiera che ne sono stata spaventata. Tuttavia ancora mi sosteneva. Il mio orgoglio, ho risposto sdegnosa. Non conosco per qual motivo supponga che dovrei parlarne con qualcuno, signor Hatfield, ma se fossi disposta a farlo, lei non mi spaventerebbe con le minacce. Non è una parte degna di un gentiluomo. Mi perdoni, signorina Murray, ha detto. L'ho amata profondamente. L'adoro ancora così profondamente. Non la offenderei volentieri. Benché non abbia mai amata, né potrei amare nessuna donna come ho amato lei, e anche certo che da nessuna donna sono stato tanto maltrattato. Anzi, ho sempre riscontrato finora che il suo sesso era il più dolce, tenero, indulgente del creato. Pensi che punizione! E la novità e la durezza della lezione che mi ha dato oggi, e l'amarezza di essere deluso proprio in quello da cui dipendeva la felicità della mia vita, devono scusare l'asprezza del mio linguaggio. Se la mia presenza l'è sgradita, signorina Murray, ha detto, perché mi guardavo intorno per mostrargli quanto poco mi curavo di lui, così che ha pensato che mi avesse stancata. Se la mia presenza l'è sgradita, signorina Murray, deve soltanto promettermi il favore che le ho chiesto e io le toglierò immediatamente il disturbo. Moltissime signore, anche di questa parrocchia, sarebbero felici di accettare ciò che lei ha così sdegnosamente calpestato sotto i piedi. E se sarebbero spontaneamente portate a odiare una il cui maggior fascino ha completamente conquistato il mio cuore e mi ha reso cieco alle loro attrattive. Un solo accenno della verità detto da me a una di queste basterebbe a sollevare tali chiacchiere contro di lei, che danneggerebbero seriamente le sue speranze e diminuirebbero le sue probabilità di riuscita con qualsiasi altro gentiluomo che lei o sua madre avesse in programma. «Che cosa vuol dire, signore?» ho detto, pronta a scattare per la collera. «Voglio dire che quest'affare mi pare un caso di furbesca civetteria dal principio alla fine, per non dir peggio. Un caso che lei non ci terrebbe che fosse strombazzato al mondo, soprattutto con le aggiunte e le esagerazioni delle sue rivali, che sarebbero contente di propagare la faccenda, se io parlassi. Ma le prometto, parola di gentiluomo, che né una parola e neppure una sillaba che potrà pregiudicarla, mi sfuggirà mai dalle labbra, purché lei man... Bene, bene, io non parlerò, ho detto. Lei può contare sul mio silenzio, se questo può portarle qualche conforto. Lo promette? Sì, ho risposto, perché desideravo sbarazzarmi di lui. Addio, allora, ha detto con la voce più accorata e con uno sguardo in cui l'orgoglio lottava vanamente contro la disperazione. Si è voltato e si è allontanato, dirigendosi senza dubbio a casa, per potersi chiudere nel suo studio a piangere, se fosse riuscito a non scoppiare in lacrime prima di arrivarci. «Ma lei ha già rotto la promessa», dissi io, veramente inorridita dalla sua perfidia. «Oh, soltanto con lei, so che lei non lo ripeterà». «Io no, ma lei lo dirà a sua sorella, e questa ne parlerà immediatamente, tornata a casa, ai fratelli, a Bruna. Se non glielo dirà lei e Bruna lo strombazzerà e lascerà strombazzare la faccenda per tutto il paese». «No, non lo farà. Non glielo diremo. O soltanto sotto la promessa del suo più stretto segreto». «Ma lei non può aspettarsi che mantenga la promessa più della sua padrona più illuminata». «Ebbene, allora non lo deve sapere», disse la signorina Murray un poco seccata. «Oh, è per questo allora. Mi chiedo che cosa ci sia di così divertente». «Sì, e poi c'è un'altra cosa. Ho umiliato il signor Hatfield molto brillantemente. E un'altra, ecco, lei deve concedermi un poco di vanità femminile. Confesso di non essere priva dell'attributo più essenziale del nostro sesso, e se avesse visto la passione del povero Hatfield nel farmi la sua ardente dichiarazione, le sue proposte lusinghiere, e quando lo rifiutai, la sofferenza spirituale che non riusciva assolutamente a nascondere, mi avrebbe permesso di avere qualche ragione di essere lusingata. Più grande la sua pena, e meno crederei che avrebbe ragione di essere lusingata». «Oh, sciocchezze!» gridò la signorina per l'impazienza. «Lei non può o non vuole capirmi! Se non fossi così convinta del suo disinteresse, penserei che mi invidia! Ma forse comprenderà quel che mi ha procurato piacere più di tutto, ossia che sono incantata della mia prudenza, del mio autocontrollo, della mia durezza di cuore, se crede. No, non sono stata presa neppure un po' alla sprovvista, neppure un po' mi sono sentita confusa, imbarazzata o sciocca. Ho agito e parlato come si doveva e mi sono mantenuta sempre padrona di me. E c'era lì un uomo indiscutibilmente bello. Gian e Susanna Green dicono di una bellezza irresistibile. Immagino che siano tra quelle signorine che secondo lui sarebbero contente di averlo. Ma comunque, egli è certamente molto intelligente, spiritoso e di piacevole compagnia. Non quello che intende lei per intelligente, ma quel tanto che gli serve per rendersi interessante. Poi è un uomo che non farà mai arrossire dovunque si trovi e di cui non ci si stancherebbe presto. E a dire la verità, lo preferivo. Ultimamente mi piaceva di più di Harry Meltham. E lui evidentemente mi idolatrava. Eppure, benché mi abbia accolta sola e impreparato, ho avuto il giudizio, l'orgoglio e il coraggio di rifiutarlo sdegnosamente e freddamente. Ho delle buone ragioni per esserne orgogliosa». «Ed è parimenti orgogliosa di avergli detto che se fosse stato ricco come il signor Hugh Meltham sarebbe stato lo stesso per lei, quando non è vero? E di avergli promesso di non dire a nessuno della sua disavventura, evidentemente senza la minima intenzione di mantenere la parola?» «Naturalmente. Cos'altro potevo fare? Non avrebbe voluto che io...» «Ah, ma vede, signorina Gray, lei non è di buon umore. Ecco, ecco Matilde, voglio vedere che cosa ne diranno mia sorella e la mamma». Mi lasciò, offesa della mia mancanza di simpatia, e certo pensando che la invidiassi. No, non la invidiavo, no. Almeno ero fermamente persuasa di no. Ero spiacente per lei, scossa, disgustata dalla sua vanità e aridità. Mi chiesi perché mai fosse concessa tanta bellezza a chi ne faceva così cattivo uso e fosse negata a chi l'avrebbe usata come un bene per sé e per gli altri. «Ma la provvidenza sa quel che fa», conclusi. «Ci sono, certo, degli uomini vanitosi, egoisti e senza cuore come lei, e forse donne simili sono necessarie per punirli». Capitolo 15. La passeggiata. «Oh, cara, vorrei che Hatfield non fosse stato così precipitoso», disse Rosalia il giorno dopo, verso le 4 del pomeriggio, con un tremendo sbadiglio, dopo aver lasciato cadere il suo ricamo in lana e guardato svogliatamente verso la finestra. «Non c'è nessuna attrattiva per andar fuori ora, e nulla da sperare. I giorni saranno lunghi e tristi come oggi, quando non ci saranno ricevimenti a portare un po' di vita. E non ce ne saranno questa settimana, che io sappia, né la settimana ventura. Peccato che sei stata così cattiva con lui», osservò Matilde, alla quale era indirizzata la lamentela. «Non verrà mai più. In fin dei conti scommetto che ti piaceva. Speravo che l'avresti preso come un tuo bello e avresti lasciato a me il caro Harry. Beh, il mio bello deve essere un Adone, Matilde, un uomo ammirato da tutti se devo accontentarmi soltanto di lui. Sono spiacente di perdere Hatfield, lo confesso, ma il primo uomo possibile o i primi che verranno a prenderne il posto saranno più che ben accetti. Oggi è domenica e mi chiedo se sarà in grado di recitare l'ufficio. Molto probabilmente accuserà un raffreddore e lascerà che faccia tutto il signor Weston. Ah, no, esclamò Matilde un poco sprezzantemente. Per quanto sciocco, non è così debole da giungere a questo. Sua sorella si sentì leggermente offesa, ma i fatti provarono che Matilde aveva ragione. L'innamorato deluso assolvette, come di consueto, ai suoi doveri pastorali. Rosalia veramente disse che aveva il volto pallido e abbattuto. Forse era un po' più pallido, ma la differenza, seppur c'era, era appena percettibile. Quanto al suo abbattimento, certamente non udì la sua risata risuonare nella sacrestia come al solito, né la sua voce squillante tenere dei discorsi allegri, ma lo sentì apostrofare il sacrestano in un modo che fece trasalire i presenti. E nel passare dal pulpito alla tavola della comunione mostrò più solennità e meno di quell'arroganza irriverente e orgogliosa con cui soleva incedere, con quell'aria che sembrava dire: «Voi tutti mi venerate e mi adorate, lo so, ma ci provi qualcuno a non farlo se ne ha il coraggio». La cosa più notevole fu però che egli non rivolse neppure una volta lo sguardo in direzione del banco dei signori Murray e non abbandonò la chiesa finché essi non furono andati via. Il signor Hatfield indubbiamente aveva ricevuto un colpo durissimo, ma il suo orgoglio lo costringeva a usare ogni mezzo per celarne gli effetti. Era stato deluso nelle sue speranze di ottenere non solamente una moglie per lui assolutamente affascinante, ma una ragazza il cui ceto sociale e la cui dote avrebbero potuto mettere in valore delle attrattive molto inferiori. Era fortemente mortificato dal rifiuto e profondamente ferito da tutta la condotta della signorina Murray. Avrebbe provato non poca consolazione se avesse saputo quanto era contrariata nel trovare che egli era apparentemente così poco emozionato e nel vedere che era stato capace di non gettarle neppure uno sguardo durante gli uffici religiosi. Ella diceva però che ciò dimostrava che pensava a lei durante tutto il tempo, altrimenti i suoi occhi sarebbero caduti su di lei se non altro per caso. Ma se Hatfield per caso l'avesse guardata, la signorina avrebbe detto che non aveva potuto resistere all'attrazione. E in certo senso sarebbe stato anche contento di vedere che almeno per buona parte della settimana era stata triste e annoiata, poiché le mancava il solito oggetto di distrazione. E quanto spesso rimpiangeva di averlo goduto in fretta, come una bambina che, divorato troppo alla svelta il suo dolce, si succhia le dita e si pente inutilmente della propria ingordigia. Finalmente, una bella mattina fui chiamata per accompagnarla in una passeggiata fino al villaggio. La ragione ostensibile era di andare ad acquistare della lana di berlino di varie tinte in un negozio abbastanza rispettabile e frequentato dalle signore del vicinato. Credo che non ci sia nessuna mancanza di carità nel supporre che la ci andasse con l'idea di incontrare per via il rettore o qualche altro ammiratore, perché mentre eravamo per strada mi chiese che cosa avrebbe fatto o detto Hatfield se l'avessimo incontrato. Mentre passavamo davanti al cancello del parco dei signori Green, disse che avrebbe voluto sapere se era a casa quel grande stupidone. Mentre ci passò di fianco la carrozza della signora Meltham, lei avrebbe voluto sapere che cosa avrebbe fatto il signor Harry in quella bella giornata. E poi cominciò a parlare male del fratello maggiore, che era stato tanto pazzo da sposarsi ed andare a vivere a Londra. Ma, dissi, credevo che desiderasse anche lei vivere a Londra. Sì, perché la vita è tanto triste qui. Ma egli l'ha resa ancora più triste andandosene. E se non fosse sposato, potevo prenderlo per marito invece di quell'odioso Sir Thomas. Poi, osservando le orme di uno zoccolo sulla strada melmosa, si chiese se erano del cavallo di un gentiluomo e finalmente concluse che sì, lo erano, perché le impronte erano troppo piccole per essere state fatte da un grosso e pesante cavallo da tiro. In seguito si chiese chi poteva essere il cavaliere e se l'avremmo incontrato mentre ritornava, perché era sicura che era passato quella mattina. E da ultimo, quando entrammo nel villaggio e vedemmo in giro solo pochi umili abitanti, si chiese perché quegli sciocchi non se ne stavano in casa. Non aveva certo desiderio di vedere le loro brutte e sporche facce e i loro vestiti grossolani. Non era venuta a Horton per questo. Intanto, Confesso che anch'io in segreto mi chiedevo se non avremmo incontrato o visto un'altra persona, e mentre passavamo accanto all'abitazione di lui, anch'io sbrigliai tanto la fantasia da chiedermi se egli non fosse alla finestra. Entrata nel negozio, la signorina Murray mi pregò di rimanere sulla soglia mentre faceva le compere, per dirle se passava qualcuno. Ma ahimè, non si scorgeva nessuno fra gli abitanti del villaggio, fuorché Giovanna e Susanna Green, che scendevano dall'unica strada, evidentemente ritornando da una camminata. Che sciocche! Mormorò essa, uscendo dopo aver finito le sue spese. Perché non hanno con loro quello scimunito del fratello? Sarebbe stato meglio di nulla. Comunque, le salutò con un sorriso gaio e delle proteste di piacere pari alle loro per il felice incontro. Esse le si posero una da una parte e una dall'altra e tutte e tre cominciarono a camminare, chiacchierando e ridendo come usano le signorine quando si trovano insieme, se sono nei termini di una certa intimità. Ma io, sentendomi di troppo fra loro, le lasciai ai loro spazi e mi tenni indietro come facevo di solito in questi casi. Non avevo nessuna voglia di camminare al fianco della signorina Giovanna o della signorina Susanna, sostenendo la parte di una persona sorda e muta. Ma questa volta non rimasi sola a lungo. Mi colpì, dapprima come una cosa molto strana, che proprio mentre stavo pensando al signor Weston egli comparve e mi si avvicinò. Ma ripensandoci, capii che non c'era nulla di strano, se non nel fatto che egli mi rivolgesse la parola. In una mattina come quella e così vicino alla sua abitazione, era abbastanza naturale che lo si incontrasse. Quanto al pensare a lui, l'avevo fatto quasi in continuazione da quando eravamo partite da casa e quindi non c'era nulla di speciale. «È ancora sola, signorina Gray?» disse. «Eh sì. Che genere di persone sono quelle signorine Green?» «Ma veramente non so. È strano, poiché ci vive vicino e le vede tanto spesso». Bene, suppongo che siano delle ragazze vivaci e brave, ma immagino che lei debba conoscerle meglio di me perché io non ho mai scambiato una parola con nessuna delle due. Davvero? Non hanno l'aria di essere particolarmente riservate. Molto probabilmente non sono così con persone della loro stessa classe, ma si considerano in una sfera diversa dalla mia. Egli non rispose direttamente, ma dopo una breve pausa disse: Immagino che sono queste le cose, signorina Gray, che la inducono a pensare di non poter vivere senza una casa. No, non precisamente. Il fatto è che sono troppo socievole per essere capace di vivere contenta senza un amico, e siccome i soli amici che ho e che probabilmente potrò avere sono a casa, se questo o piuttosto questi mi venissero meno, non dico di non poter vivere, ma preferirei non vivere in un mondo così desolato. Ma perché dice che sono i soli amici che probabilmente avrà? È così poco socievole che non può farsi degli amici? No, oh no, ma non ne ho fatto ancora neppure uno e nella mia condizione attuale non ho alcuna possibilità di farne e neppure di stringere una conoscenza comune. La colpa forse è in parte mia, ma probabilmente non tutta mia. Beh, la colpa è in parte della società. In parte, suppongo, di quelli che le vivono vicino, in parte anche sua, perché molte signorine nella sua condizione si farebbero notare e stimare. Le sue allieve dovrebbero essere per lei, in un certo senso, delle compagne, perché certo non sono molto più giovani di lei. Oh, sì, qualche volta sono delle buone compagne, ma non posso chiamarle amiche, né esse penserebbero di darmi tale appellativo. Le compagne che hanno si addicono di più ai loro gusti. Forse la considerano troppo saggia? Come passa il tempo quando è sola? Legge molto? Ah sì, la lettura è la mia occupazione preferita, quando ho tempo e libertà. Dai libri in generale passò a parlare di alcuni libri in particolare e continuò con rapidi passaggi da un argomento all'altro finché diverse questioni, sia di gusto che di opinioni, furono discusse a fondo nello spazio di mezz'ora. Ma senza l'abbellimento di troppe osservazioni da parte sua, poiché egli cercava evidentemente non tanto di esprimere le proprie opinioni e predilezioni, quanto di scoprire le mie. Non aveva il tatto o l'arte di raggiungere quello scopo, traendo abilmente i miei sentimenti e pensieri dall'esposizione reale o apparente dei propri, o di condurre la conversazione per gradi impercettibili al punto che desiderava chiarire, ma la sua gentile bruschezza e franchezza ingenua non potevano affatto offendermi. E perché si interessava tanto delle mie capacità morali e intellettuali? Che cosa gli importava di quel che pensavo e sentivo? Mi chiesi. E il cuore ebbe un tuffo in risposta. Ma Giovanna e Susanna arrivarono ben presto a casa. Mentre stavano a parlamentare davanti al cancello, cercando di persuadere la signorina Murray a entrare, mi augurai che il signor Weston se ne andasse perché ella non lo vedesse con me. Ma sfortunatamente i suoi affari, ossia il dover fare ancora una visita al povero Marco Wood, lo costringevano a continuare lo stesso nostro sentiero fin quasi al termine del nostro tragitto. Però, quando vide che Rosalia aveva salutato le sue amiche e che io mi preparavo a raggiungerla, avrebbe voluto lasciarmi e proseguire a passo più rapido. Ma mentre alzava educatamente il cappello, passando di fronte alla signorina, con mia sorpresa, invece di ricambiare il saluto con un inchino rigido e riservato, ella gli si accostò con uno di quei suoi sorrisi dolcissimi e mettendoglisi a fianco cominciò a parlargli con tutta la possibile socievolezza e affabilità. E così continuammo la strada tutti e tre insieme. Tacemmo tutti per un momento, poi il signor Weston rivolse un'osservazione a me in particolare, come riferendosi a qualcosa di cui avevamo discusso prima. Ma prima che potessi rispondere, la signorina Murray prese la parola e rispose per me. Egli replicò, e da quel momento fino alla fine del cammino ella lo assorbì completamente. Era colpa forse della mia stupidità e mancanza di tatto e di sicurezza, ma mi sentivo mortificata. Tremavo di apprensione e ascoltavo con invidia la sua disinvolta parlantina, osservando con inquietudine il sorriso luminoso con cui di tanto in tanto lo guardava in viso, perché camminava un po' avanti con lo scopo, pensai, di essere vista tanto bene quanto udita. Benché la sua conversazione fosse leggera e comune, era certo divertente ed ella non mancava mai di argomenti o di parole adatte per esprimersi. In quel momento non aveva nulla di provocante e audace nei modi, come quando passeggiava con il signor Hatfield. Aveva solo una vivacità gentile e scherzosa che, secondo me, doveva piacere moltissimo a un uomo della natura e del temperamento del signor Weston. Appena si fu allontanato, cominciò a ridere e mormorò fra sé: «Credo che ci riuscirò!» «A fare che cosa?» chiesi. «Ad attrarre quell'uomo!» «Che cosa mai vuol dire?» «Voglio dire che andrà a casa e sognerà di me. Gli ho trafitto il cuore!» «Come lo sa?» «Ho da molte prove infallibili, e specialmente dall'occhiata che mi ha dato quando è andato via. Non era un'occhiata impudente, non l'incolpo di questo. Era un'occhiata di adorazione rispettosa e tenera. Non è poi quel povero scimunito che credevo!» Non risposi perché mi sentivo il cuore in gola e non mi arrischiavo a parlare. «Oh Dio, allontana da lui questo male!» gridai dentro di me. «Per amor suo, non per me!» La signorina Murray fece alcune osservazioni comuni mentre attraversavamo il parco, alle quali, nonostante la mia riluttanza a lasciar trasparire i miei sentimenti, potei rispondere solo con monosillabi. Non so dire se voleva tormentarmi o semplicemente divertirsi, ma io pensai a quell'uomo povero che possedeva un unico agnello e al ricco che possedeva migliaia di greggi. E temetti non so che cosa per il signor Weston, indipendentemente dalle mie speranze distrutte. Fui ben contenta di arrivare a casa e trovarmi sola ancora una volta in camera mia. Il mio primo impulso fu di gettarmi sulla sedia accanto al letto e affondare la testa sul guanciale per cercare sollievo in uno sfogo di pianto. Oh, avessi potuto abbandonarmi a tale refrigerio! Ma ahimè, dovetti ancora una volta reprimere i miei sentimenti. La campana odiosa annunciava il pranzo nella sala studio. E dovevo scendere col viso calmo e sorridere. Ridere e dire sciocchezze, sì, e anche mangiare, se possibile, come se tutto andasse bene e fossi ritornata da una passeggiata piacevole.